terzo anello ad alta voce, Lolita di Vladimir Nabokov. Viaggiavamo con tutto comodo, perché avevamo più di una settimana per raggiungere Ways, sul Continental Divide, dove Lolita desiderava appassionatamente vedere le danze cerimoniali che festeggiano l'apertura stagionale della Grotta Magica, e almeno 3 settimane per raggiungere Elphinstone, gemma di uno stato dell'Ovest, dove Lo agognava di scalare il Red Rock, dal quale una matura stella del cinema si era appena tuffata verso la morte, dopo un'ubriaca scenata con il suo gigolò. Di nuovo, i motel diffidenti ci accolsero con scritte che dicevano: «Vogliamo che vi sentiate come a casa vostra. Al vostro arrivo è stato fatto un attento inventario di tutti gli oggetti presenti nella vostra stanza. Abbiamo registrato il vostro numero di targa. Usate l'acqua calda con parsimonia. Ci riserviamo il diritto di espellere senza preavviso qualunque persona sgradita. Non gettate rifiuti di alcun genere nella tazza del water closed. Grazie. Visitateci di nuovo. La direzione». Post scriptum. Per noi, i nostri clienti sono la gente più bella del mondo. In quei luoghi terrificanti pagavamo $10 per 2 letti gemelli. Le mosche facevano la fila davanti alla porta senza zanzariera e riuscivano sempre a intrufolarsi in camera. I mozziconi dei nostri predecessori indugiavano ancora nei portacenere. Sul cuscino c'era un capello di donna. Si sentiva il vicino che appendeva la giacca nell'armadio. Gli attaccapanni, per impedire i furti, erano ingegnosamente fissati all'asta da volute di fil di ferro e, insulto supremo, i quadri appesi sopra i letti erano gemelli, identici. E ora voglio rivolgere un monito al lettore affinché non si prenda gioco di me e della mia nebbia mentale. È facile per lui e per me decifrare adesso un destino ormai compiuto, ma un destino in fieri non è, credetemi, uno di quegli onesti gialli in cui basta tener d'occhio gli indizi. In gioventù lessi una volta un racconto poliziesco francese in cui gli indizi erano addirittura in corsivo, ma non è questo il sistema di McFatum, per quanto si possa imparare a riconoscere certi segni oscuri. Per esempio, non potrei giurare che in almeno un'occasione, prima della fase Midwest del nostro viaggio o al suo principio, Lolita non abbia potuto trasmettere qualche informazione o comunque entrare in contatto con uno o più ignoti. Ci eravamo fermati a un distributore sotto l'insegna di Pegaso e Lo era sgusciata via per fuggire verso il retro dell'edificio, mentre il cofano alzato sotto il quale mi ero chinato per osservare le manipolazioni del meccanico la nascondeva per un momento alla mia vista. Incline all'indulgenza, mi limitai a crollare il capo benigno, benché a rigore quelle sue puntatine fossero tabù. Io sentivo istintivamente che le toilette, così come i telefoni, erano i punti in cui, per ragioni insondabili, il mio destino rischiava di rimanere impigliato. E così, dopo il controllo alla macchina, mi ero allontanato dalla pompa di benzina per cedere il posto a un camioncino, quando, in quel ventoso grigiore, cominciò a gravarmi addosso il volume crescente dell'assenza di Lo. Il suono dell'ultimo singhiozzo di Charlotte vibrò incongruamente dentro di me, mentre Lolita, il vestito che ondeggiava in contrappunto, svoltava da una direzione totalmente inaspettata. Aveva trovato la toilette occupata e aveva traversato la strada per raggiungere l'insegna della Conchiglia, un isolato più giù. Là dicevano di andar fieri dei loro servizi, puliti come quelli di casa tua. Abbiamo predisposto queste cartoline preaffrancate, dicevano, perché ci scriviate i vostri commenti. Niente cartoline, niente sapone, nulla di nulla, niente commenti. Quel giorno, o quello successivo, dopo un viaggio tedioso attraverso terre di colture alimentari, raggiungemmo un piacevole paesetto e ci fermammo al Chestnut Court. Bei bungalow, prati rugiadosi, meli, una vecchia altalena e un fantastico tramonto che l'estenuata bambina ignorò. Aveva voluto passare per Casbin, perché era solo 45 chilometri a nord della sua città natale. Ma il mattino dopo la trovai indifferente. Si lamentò di sentirsi poco bene. Voleva restare a letto almeno fino all'ora del tè, con tante riviste, e poi, se le fosse passato, proponeva di riprendere il viaggio verso ovest. E devo dire che era molto dolce e languida, e aveva una gran voglia di frutta fresca, e decisi di andare a Casbin a comprarle appetitose cibarie da picnic. Mentre raggiungevo il cottage in cui avevo lasciato la mia Dolores, mi sentivo adolori d'amores langueur, per citare il buon vecchio Ronsard. La trovai vestita, era seduta sull'orlo del letto in calzoncini e maglietta, e mi guardava come se faticasse a riconoscermi. La schietta morbida forma dei suoi piccoli seni era messa in rilievo piuttosto che offuscata da quel tessuto leggero e molle. Quella schiettezza mi irritò. Non si era lavata, eppure aveva il rossetto sulle labbra per quanto sbavato, e i denti larghi brillavano come avorio tinto di vino o come fish rosa. Stava lì seduta, le mani strette in grembo, l'aria sognante, e traboccava di un diabolico bagliore che non aveva alcun rapporto con me. Posai con un tonfo il pesante sacchetto di carta e me ne restai lì a guardare le caviglie nude sopra i sandali. Poi la sua faccia beatamente stupida, poi di nuovo i suoi piedi peccaminosi. «Sei uscita», dissi. I sandali erano sporchi di ghiaia. «Mi sono appena alzata», rispose. E quando intercettò il mio sguardo abbassato, aggiunse: «Sono uscita un secondo. Volevo vedere se tornavi». Notò le banane e svolse le spire del suo corpo verso il tavolo. Quali sospetti specifici potevo avere? Nessuno, certo, ma quei suoi occhi di luna e mota, quel singolare calore che emanava da lei, non dissi nulla. Guardai la strada e i suoi nitidi meandri nella cornice della finestra. Chiunque avesse voluto approfittare della mia fiducia vi avrebbe trovato uno splendido osservatorio. Con appetito crescente, Lo si dedicò alla frutta. D'un tratto ricordai il sorriso propiziatorio del nostro vicino. Uscii in fretta. Tutte le macchine erano sparite, eccetto la sua giardinetta. La giovane moglie incinta vi stava salendo col suo piccolo e con l'altro bambino, più o meno neutralizzato. «Cosa c'è? Dove stai andando?» gridò Lo dalla veranda. Non dissi nulla. Spinsi in camera la sua morbidezza. Rientrai a mia volta, le strappai via la maglietta, aprii la lampo di ciò che le restava addosso, le tolsi i sandali, inseguii selvaggiamente l'ombra della sua infedeltà, ma in pratica la traccia che fiutavo, lieve com'era, non si poteva distinguere dalle fantasie di un pazzo. Al Gros Gaston, in quel suo modo affettato, piaceva far regali. Regali che erano un affettato tantino fuori dall'ordinario, o così lui affettatamente pensava. Avendo notato una sera che la scatola delle mie pedine era rotta, mi mandò il mattino dopo, per mano di uno dei suoi giovincelli, un cofanetto di rame con un elaborato motivo orientale sul coperchio e una solida serratura. Mi bastò un'occhiata per capire che si trattava di uno di quei salvadanai da quattro soldi, chiamati per qualche ragione Louis-Jet, che si comprano ad Algeri o altrove per poi non saper più che farne. Ma si rivelò di gran lunga troppo piatto per contenere le mie ingombranti pedine, ma lo tenni e lo usai a tutt'altri fini. Per spezzare una trama del destino nella quale mi sentivo oscuratamente impigliato, avevo deciso, nonostante la visibile irritazione di Lo, di passare un'altra notte al Chestnut Court. Svegliatomi in modo definitivo alle 4 del mattino, mi assicurai che Lo dormisse ancora profondamente e controllai che il prezioso contenuto della luigetta fosse al sicuro. Dentro, caldamente avvolta in una sciarpa di lana bianca, c'era una piccola rivoltella automatica, calibro 32, capacità del caricatore 8 colpi, lunghezza un po' meno di un nono della lunghezza di Lolita, calcio in noce a scacchi, rifinitura interamente brunita. L'avevo ereditata dal fu Harold Hayes, insieme a un catalogo del 1938 che, fra l'altro, diceva lieto: particolarmente adatta all'uso in casa e in macchina, come sulla persona. Ed era pronta, infatti, ad un uso immediato sulla persona o le persone, carica e col cane alzato, ma con la sicura per evitare spari accidentali. Non dobbiamo dimenticare che la pistola è il simbolo freudiano del membro central frontale dell'ur padre. Tu stai qui, bisbigliai alla mia amichetta leggera e compatta e brindai alla sua salute con un sorso di gin. Ora il lettore dovrà dimenticare Castagne e Colt e accompagnarci ancora più a ovest. I giorni successivi furono segnati da un certo numero di violenti temporali, o forse da uno soltanto, che avanzava per il paese a ponderosi salti da rana senza che riuscissimo a scrollarcelo di dosso, proprio come non ci scrollammo di dosso il detective. Trapp. In quei giorni, infatti, mi si presentò il problema della decappottabile rosso azteco, che mise del tutto in ombra il tema degli amanti di Lo. Strano. Io, che ero così geloso di ogni maschio che incontravamo, strano che abbia così frainteso le designazioni del destino. Forse mi aveva rasserenato il comportamento modesto di Lo durante l'inverno. E comunque anche per un matto sarebbe stato troppo assurdo immaginare che un altro Humbert, con l'accompagnamento dei fuochi d'artificio di Zeus, seguisse avidamente Humbert e la sua ninfetta per quelle pianure vaste e sgradevoli. Congetturai donc che la yak rossa che ci seguiva a discreta distanza, un chilometro dopo l'altro, fosse guidata da un detective, assoldato da qualche ficcanaso, per scoprire che cosa facesse esattamente Humbert con quella sua figliastra minorenne. Poiché sono un assassino dalla memoria sensazionale, ma incompleta e poco ortodossa, non so dirvi, signore e signori, il giorno esatto in cui ebbi per la prima volta l'assoluta certezza che la decapottabile rossa ci seguiva. Ricordo, tuttavia, la prima volta che vidi con chiarezza il suo guidatore. Un pomeriggio procedevo lentamente in mezzo a torrenti di pioggia, continuando a vedere quel rosso fantasma che nuotava nel mio specchietto, tremolando di lussuria. Quando, dopo non molto, il diluvio si ridusse a un debole picchettio e poi si interruppe del tutto. Un raggio di sole spazzò l'autostrada con un fruscio. Mi servivano un paio di occhiali scuri e mi fermai a una stazione di servizio. Dopo aver provveduto ai bisogni della mia macchina, entrai nell'ufficio per prendere quegli occhiali e pagare la benzina. Mentre firmavo un traveler's check e mi domandavo dove mi trovassi esattamente, mi accadde di guardare fuori da una finestra laterale e vidi una cosa terribile. Un uomo dal dorso ampio, un po' pelato, con una giacca color pappa d'avena e calzoni marrone scuro, ascoltava l'O che si sporgeva fuori dalla macchina e gli parlava molto rapidamente, la mano che andava su e giù con le dita allargate, come faceva quando era molto seria ed enfatica. Ma ciò che mi causò un violento malessere fu, come dire, la loquace familiarità del suo atteggiamento, come se si conoscessero, oh, da settimane! Lo vidi grattarsi una guancia e fare un cenno d'assenso e girarsi e tornare alla decappottabile, un mio coetaneo, largo e un po' tarchiato, che aveva una certa somiglianza con Gustav Trapp. Sì, un cugino svizzero di mio padre. Stessa faccia dalla bronzatura uniforme, più piena della mia, con un paio di baffetti neri e la bocca a bocciolo di rosa. Da degenerato. Quando tornai alla macchina, Lolita stava studiando una cartina. Che cosa ti ha chiesto quell'uomo? No. Un uomo? Ah, quello, ah sì. Ah, non so, voleva sapere se avevo una cartina. Si sarà perso. Proseguimmo e dissi: ora ascoltami, Lo. Io non lo so se tu stia mentendo o no, e non so se sei pazza o no, e per il momento non mi interessa, ma quella persona ci ha seguiti per tutto il giorno e ieri la sua macchina era al motel e io credo che sia un poliziotto. Sai perfettamente che cosa succederà e dove andrai a finire se la polizia scopre qualcosa. Adesso voglio sapere con precisione che cosa ti ha chiesto e che cosa gli hai risposto. Lei rise. Se davvero è un poliziotto, disse con petulanza ma non senza logica, la cosa peggiore che possiamo fare è mostrargli che abbiamo paura. Ignoralo, papà. Ha chiesto dove stiamo andando? Oh, questo lo sa. Comunque, dissi, arrendendomi, stavolta l'ho visto in faccia. Bello non è. È identico a mio parente che si chiama Trapp. Magari è Trapp, se fossi in te. Oh, guarda, tutti i 9 stanno per diventare un altro 1000. Quando ero piccola, continuò inaspettatamente, pensavo che se solo la mamma avesse messo la marcia indietro, gli zeri si sarebbero fermati e sarebbero ridiventati tanti 9. Era la prima volta, credo, che parlava spontaneamente della sua infanzia pre-hambertiana. Forse gliel'aveva insegnato il teatro quel trucco. E proseguimmo in silenzio. senza scorta. If you're blue, you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. A super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. To go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Hey, dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz. Ennio Fantastichini ha letto Lolita di Vladimir Nabokov, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.